Ma noi stiamo lavorando a questa mappa da mettere sul sito, no? Che è quella dei quartieri, forse voi l'avete vista, no? È più o meno interattiva, dove ci stanno i puntini con i disegni, si va sopra e c'è il disegno. Però farla, per esempio, ai quartieri spagnoli è stata molto facile, perché questo è un software che attraverso Google Map ricalchi con una mappa disegnata da te, però più o meno, cioè, diciamo, le coordinate ce le hai da Google Map. Taranto Vecchia non è mappata. Cioè, Non è mappata ci stanno tre bene. strade, le tre strade di cui parlava lui, che la gente attraversa il perimetro, no? Poi tutti i vicoletti che per la maggior parte sono murati, sono palazzi che non sono praticabili, quindi come non esistono, però sono palazzi del Seicento, sono cose. Cioè, quella è la Magna Grecia quella. Cioè, sotto ci sono gli ipogei, i greci, poi sopra c'è una città che è cresciuta in altezza, visto che era un'isola, quindi è stratificata. E là ci stanno tre strade, poi è difficilissimo per noi mettere i puntini sulla mappa, è una cosa difficile, li mettiamo a cazzo e dopo li spostiamo sempre a occhio, più o meno guardando le vie principali, però è una cosa difficilissima. E questo comunque la dice lunga Sì, non ha senso, è quasi su in più che stato difficile sta. mapparla che mapparla, no? Che senso No, perché vabbè, è percorribile solo per un quarto, cioè tre quarti sono vicoli murati e palazzi abbandonati. Sì, però fisicamente c'è Fisicamente un'isola. l'aria insiste, sì. Ci sono proprio degli spazi che non sono penetrabili? Sì, alcuni sono proprio murati da parte a parte, un vicolo è chiuso da tutti e due i lati, poi se tu vuoi scavalcare, Ma scavalchi. in appena 50 anni. Tipo, mi è capitato di incontrare dei turisti francesi che cercavano la casa dei loro nonni, che erano degli emigrati, e mi chiedevano il vico tal d'età, vico stanzione. E questo vico è chiuso. E quindi sì, li ho portati fuori, mi hanno detto: guarda, è là dietro. Non ci È là. credevano, non ci Dicevo, credevano, come? Mia non nonna ci ci credevano. aveva. Dice, come cazzo? Perché loro lo Non c'è vedevano, l'idea di dicevano, essere in un incubo, lo ma vedevano in una fotografia, veramente no? non ci può Vedevano la credere. bottega del Che uno padre dice, avete che. questo e l'ho murato. Poi in un anno in cui siamo stati là, Scusate, noi dobbiamo sono. andare, Grazie a voi. Ciao. Sono caduti almeno 5 palazzi mentre stavamo là in un anno. O come crolli di balconi, oppure che si autoimplodono. Comunque. Aspettano che crolli tutto, praticamente, questa è la. Pare di sì. Altro strato. Un altro ponte. Un bel parcheggio. Altro strato. Parcheggio. Supermercato. L'impressione che ho avuto è che c'è un fortissimo senso di comunità, nel senso che viene vissuta molto semplicemente l'unione tra le persone e la comunicazione tra le persone. Mi sembra qualcosa che poteva essere comune ovunque negli anni 60, negli anni 70, mentre adesso siamo tutti molto più chiusi nelle case, chiusi nelle abitudini, chiusi in vari, come so, nelle abitudini al centro commerciale, a questa, a quell'altro, cioè. Mentre lì c'è, mi sembra, uno scendere nelle strade e un partecipare, un partecipare, vedere cosa succede. C'è una curiosità genuina. Sì, questo succede abbastanza, cioè, no, non lo so, io questa cosa qua che dici tu non la sento molto perché la vivo quotidianamente, cioè così anche a Napoli. Sì, esatto, anche a Napoli. Però immagino sì, che a vederla da fuori ti può dare questa impressione. Per dire, questi bambini che scorrazzano per vincere questa cosa che partecipano e ti chiedono, mentre magari qua è più facile che i bambini siano timidi perché vengono Certo, è solo per l'educazione che ti non porta pure a parlare con persone questo. che non conosce, così. Questa è una ricchezza. Sì, ma questo c'è anche a Taranto, anche a Napoli, ci stanno. No, anche quello che dici tu, che i ragazzini tirano dritto, che vengono educati a non parlare con. Cioè, dipende dai quartieri, capito? Ci sta questa divisione in caste, no? Poi abbastanza netta, dove trovi sia quello che quello. Poi, diciamo, gli antropologi le chiamano le persistenze queste cose, perché è una cosa che tende a sparire, perché. in effetti dall'alto è deciso che devono sparire. È un processo di che loro chiamano civilizzazione, poi guadagni delle cose, ne perdi mille altre. Bisogna metterle sulla bilancia. Poi. Beh, si chiama anche progresso la tendenza al consumo. Per cui appunto. Sì, poi vabbè, tipo quando vai, domandi, dove abiti tu? Ah, abiti in città, mi dicono a me, abito in periferia. Ah, tu abiti in città, cioè come se loro non abitassero, non lo so, nella ma appunto in una polis, non lo so, oppure nel Medioevo, in una cittadella, non lo so. Cioè, loro si sentono, ah, tu abiti in città, quindi c'è pure... Cioè, un sobborgo e invece sono... Il centro. Ah, e poi a margine del libro ci sono delle interviste fatte da cura della redazione di Napoli Monitor, ci sono, così come Quartieri Spagnoli, c'erano delle interviste sulle storie, insomma c'erano. Sì. Invece riproporre la cornice di Cuore Spinato in un'altra città, cioè è capitato? Avevate già in testa, avete cercato... Vabbè... Sì, no, ma diciamo, se dovessi pensare a quello che voglio fare, tipo l'idea nostra sarebbe di farla in ogni regione del sud, per costruire poi alla fine, questo è proprio quando se vuoi pensare in avanti, una specie di almanacco, un racconto di una città campana, calabra, siciliana, lucana e pugliese. Però questo ovviamente si devi confrontare con i mezzi, con i tempi, con tutte le... Con gli incontri. Con gli incontri, con il rischio che pure, cioè, un po' pure la piega che ha preso l'arte urbana è un po' fastidiosa negli ultimi anni, quindi è un po'... Cioè quando vedi che una determinata estetica va a finire sulle pagine dei giornali sotto forma di pubblicità, io penso che è arrivato il momento di ricambiare, perché noi facevamo i graffiti tanti anni fa, e che erano le lettere, i colori, gli spray, tutte quelle cose là che penso più o meno tutti conoscete. Ed erano una cosa fortissima come impatto visivo, no? Poi è arrivato il momento in cui quella roba là andava a finire sullo zainetto della Seven, no? Quindi vuol dire che quell'estetica è stata completamente mangiata e assimilata, digerita, arrotondata per i bordi, no? E non serve più a niente. Esatto. E quindi là è successo che abbiamo iniziato a fare altre cose, penso che... Già adesso bisogna pensare di, non lo so, di usare martello e scalpello, fare inventarsi altre cose. Perché pure questa assuefazione è pericolosa, secondo me. Poi ovviamente quello che facciamo noi è un po' diverso, non è che, cioè, non è solo la pittura, non è solo il video, è tutta una costruzione di una cosa che ha pure una durata un po' lunga, no? Che ha a che fare proprio con le relazioni, con lo stare fisicamente in un posto, no? Mettersi in ascolto. Sì. E quindi... Sì, non lo so, cercare comunque di evitare di andare a finire nella pubblicità. Ma non so nello specifico che cosa voglio dire, però io lo sento questo rischio. Forse il linguaggio estetico può venire assimilato da quello che è la comunicazione di massa, eccetera, però è proprio il contenuto che c'è dietro, non è differente. Sì, ma io lo so bene questo, però no, la cosa che mi fa piangere proprio è vedere che le persone che lo recepiscono non riescono a vedere la differenza, capito? Sì, sono un pessimista convinto io. Allora, caro mio, no, secondo me no. Però anche che fa, l'importante poi è fare. Ti avvicina proprio, però più là, che quella è un risucchiare, non è un pettinare. No, ma io mi auguro che questo non avvenga, però cioè, vedere certe cose mi fa girare proprio le palle, sai. Ma magari non su Taranto, quando è che è stato chiuso il lavoro su Taranto? Questo novembre. E, per esempio, magari più su quello di Napoli o magari anche su questo, però siete stati avvicinati dalle istituzioni? Mai, per fortuna. Per fortuna sono... Nessuno l'ha mai chiesto appunto di presentarlo. E questo dovrebbe rassicurare. No, però questo è il rischio, capito? No, appunto. Cioè, non so, un assessore che dice... Può succedere. Ma ci ha chiamato il sindaco di Taranto. perché era nel libro, nel film. Quello che tipo voleva mettere a fatto zonco, che ci scrive il sindaco, perché voi siete pagati dalla... No, è questo, vedi, è questo discorso qua, sta succedendo questo in Italia. Cioè, altrove già da tanto tempo, però sta succedendo pure in Italia, che c'è il Ministero della Gioventù, no, che finanzia queste cose qua, che poi ovviamente, però sono proprio veramente facciate dipinte, poi dietro non c'è niente. Però io lo vedo subito, perché ovviamente da dentro conosco bene le persone, i personaggi, le modalità. Però magari scritto su un giornale non è così evidente. E può sembrare tutto la stessa cosa. E quando ci sta questo pericolo di confusione, io penso che bisogna proprio voltare pagina e andare da un'altra parte. Non so, una cosa che mi veniva da dire, ma non so tanto elaborarla bene in questo momento. Cioè, quando dicevate facciamo questo percorso nelle regioni del sud, dentro di me mi si apriva una scintilla che diceva c'è molto sud anche nel nord. Ah, ti sono sicuro di questo. Cioè, no, adesso no, anch'io non vedo con tanta... Però pure il fatto che le persone adesso mi chiedono ma adesso che città vuoi fare, no? A me mi inquieta proprio. Perché ne so, cioè, da solo forse, che città? No, infatti mi piacerebbe cambiare un po' le pareti di Mantova. Stare un altro aspetto, fare qualcos'altro, No, ma va bene, poi quando ogni volta che concludi un lavoro ci deve essere una crisi, se non c'è questa crisi è meglio che smetti proprio da subito. Sì.